Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È ripartita un'ora fa dal porto di Trieste la nave da crociera MSC Splendida, bloccata qui da ieri sera a causa delle fortissime raffiche di bora. Oltre 100 gli interventi finora effettuati dai vigili del fuoco in tutta la città e diversi altri restano in coda. Si tratta soprattutto di alberi sradicati e spezzati e pali telefonici divelti. Si annuncia più tranquillo il fine settimana, bora moderata domani, in ulteriore calo da domani sera. Il cielo resterà coperto su gran parte della regione, domenica finalmente cielo sereno o poco nuvoloso. 22 camion e 160 tonnellate di immondizia portate via. Il silos di Trieste è stato ripulito, ma ora la proprietà Allianz 3.0 chiede alle autorità aiuto per controllare affinché il sito non torni ad essere riparo per i migranti privi di altre sistemazioni. Intanto il comune di Trieste vara per l'area compresa tra via Geppa, via Roma, via Ghega, piazza Libertà e largo Città di Santo su un'ordinanza simile a quella applicata per piazza Garibaldi. Chiusura degli esercizi commerciali e divieto di detenzione di bevande alcoliche a partire da domani dalle 23 alle 6. Settore legno arredo in crisi, esportazioni giù del 5,1% nel primo semestre dell'anno in corso. Confindustria Udine esprime preoccupazione, ma la proposta dell'Unione Europea di posticipare l'entrata in vigore del regolamento sulla deforestazione offre un barlume di speranza. 5 anni fa, nella questura di Trieste, l'uccisione dei due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego per mano di Alejandro Meran, attualmente rinchiuso in una struttura sanitaria alla Spezia. In mattinata una breve cerimonia, nel GR l'intervista all'autore di un libro che ricorda i due agenti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. Solo a Trieste sono stati più di un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, alcune decine quelli ancora in lista d'attesa. Sentiamo allora la cronaca di quanto è avvenuto nel servizio di Antonio Di Bartolomeo. Ha creato più di qualche problema la bora a Trieste da quando è iniziato a soffiare ieri nel primo pomeriggio. Nonostante la raffica massima si sia fermata a 111 km orari sotto i 130 che alcuni modelli prevedevano, i disagi sono stati numerosi. Decine gli alberi caduti, almeno metà dei 150 interventi dei vigili del fuoco, tra quelli eseguiti e quelli in coda, riguardano danni o difficoltà causati dal vento forte. Diverse le auto schiacciate o comunque coinvolte dalla caduta di alberi, come è accaduto a San Giovanni in via Sanzio. Su questo e altri casi opera la polizia locale, che ha richiamato i dipendenti reperibili. A Mattonaia, comune di San Dorligo della Valle, una pianta alta da 12 metri ha divelto la linea aerea del telefono ed è piombata sulla recinzione di una casa, adagiandosi sul muro esterno dell'abitazione. Laborioso l'intervento dei pompieri, che hanno operato con personale in più rispetto al normale e con il supporto nella notte dei colleghi di Udine. È rimasta chiusa sempre nella notte via Visinada, sempre per albero caduto. 3 gli interventi di Acegas per risolvere i problemi legati alla linea elettrica. Notte particolarmente difficile anche per i migranti, che hanno dormito all'addiaccio sotto l'acqua cercando un minimo di riparo nell'ingresso del Porto Vecchio, come ha denunciato l'associazione Linea d'Ombra, mentre in tarda mattinata è riuscita a salpare la nave da crociera rimasta bloccata ieri sera dal forte vento. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sentiamo cosa ci dice il vice comandante dei pompieri di Trieste, Alessandro Sanzin. Da quando è cominciato il maltempo, quindi primo pomeriggio, abbiamo fatto un centinaio, adesso ovviamente si stanno aggiungendo, quindi diciamo sui 110-115 interventi di soccorso tecnico urgente correlati ovviamente esclusivamente al maltempo, quindi alberi, cornicioni, intonaci, cartelloni, qualche antenna e qualche camino. Questa volta sembra che l'impatto della bora sia stato superiore rispetto ad altre volte. Diciamo che dal nostro punto di vista un po' l'impatto è correlato alle raffiche, alla velocità delle raffiche. Al di là di questo, il vento, i primi venti che capitano della stagione, quindi adesso nell'autunno, di solito ovviamente sono sempre forieri di questi numeri, insomma, quindi non è che ci sia cose particolarmente eclatanti o cose nuove, ci siamo abituati. Insomma. Sono più problematici perché gli alberi in questo periodo hanno più foglie? La presenza di foglie aumenta la vela, quindi che l'albero presenta nei confronti del vento e quindi ovviamente è soggetto a una spinta più intensa e quindi ovviamente l'albero è più propenso a cedere quando in qualche maniera il tronco o le radici sono compromesse o hanno qualche piccolo problema. Una trentina dalla nottata invece gli interventi dei vigili del fuoco di Gorizia, sempre riguardanti alberi e rami caduti. 15 le uscite delle squadre di Pordenone per emergenze legate alla caduta di alberi. Situazione più tranquilla in provincia di Udine, risparmiata dal vento forte. Uno sguardo al tempo, cielo coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 15 gradi e 5 decimi, vento a 38 km orari da est-nord-est, Bora. Gorizia 14 gradi, Udine 12 e 5 decimi, Pordenone 12. Tolmezzo 8 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 5 gradi, Piancavallo, Tarvisio e Sappada 3 gradi e 5 decimi, Monte Zoncolane e Monte Lussari 0 gradi. Grado 15, Lignano 13 gradi e 5 decimi. Ma sentiamo ora dal punto di vista meteorologico cosa è successo, quanta pioggia è caduta, quale velocità hanno raggiunto le raffiche di Bora, come sarà il fine settimana, in linea il previsore dell'OSMER, Livio Stefanuto. Sì, l'episodio ha portato mediamente tra i 50 e gli 80 mm di pioggia in regione, con dei valori più accentuati verso la costa, dove un massimo è stato registrato con 125 mm a Fossalon ed anche verso le Prealpi Carniche, il Piancavallo in particolare, con quasi 115-120 mm di pioggia. Ha fatto un po' di neve anche, qualche centimetro in Carnia, un po' di più al confine con l'Austria, 15-20 cm a Pramollo, qualcosina in più anche sulle Giulie e sul Canino in particolare, con valori oltre i 20 cm. È associato Bora decisamente forte, in particolare nel pomeriggio di ieri, dove Trieste ha superato i 111 km all'ora. Stamattina raffiche di vento ancora piuttosto forti a Trieste, raffiche attorno ai 90 km all'ora. Adesso la depressione responsabile di questo episodio è ancora centrata sul nord Italia, quindi richiama ancora corrente da sud umide sulla regione fino direi alla mattinata di domani, e richiama vento da nord-est nei bassi strati, quindi avremo ancora cielo nuvoloso coperto fino a domani mattina, con delle piogge in genere però moderate, intermittenti sulla fascia orientale, solo localmente abbondanti verso le Prealpi Carniche e il Piancavallo. Continuerà a soffiare vento, ma direi in calo, con Bora moderata nel pomeriggio e in ulteriore calo nella mattinata di domani. Domenica invece ci aspetta una bella giornata, correnti secche da nord porteranno cielo sereno poco nuvoloso sulla regione, con venti deboli e temperature in leggero rialzo. 160 le tonnellate di rifiuti, 22 i camion di materiale buttato. Ripulito così il silos di Trieste in meno di 2 settimane, ora pronto alla vendita entro l'anno. Resta il problema di evitare che le persone migranti in cerca di riparo si reinsidino nella struttura. Chiediamo un sostegno alle forze dell'ordine perché l'area è grandissima, dicono i responsabili di Alleanza 3.0. 22.000 metri quadrati di superficie bonificati in 2 settimane al silos di Trieste, 160 tonnellate di rifiuti, tende, abiti, pezzi di vita di migliaia di migranti che per anni qui hanno trovato riparo, sono stati portati via, quanto possibile è stato invece recuperato. Il sito ha cambiato volto, ha dichiarato il consigliere d'amministrazione di Coop Alleanza 3.0 Nico Costa, che ci ha accompagnati dentro al silos. Il vostro lavoro, dite, l'avete fatto? Sì, noi abbiamo ottemperato a tutte le prescrizioni, abbiamo bonificato, sanificato, derattizzato, abbiamo rafforzato i presidi per evitare la violabilità del sito secondo le indicazioni della questura e quindi si può incominciare a ragionare seriamente sulle opportunità di sviluppo che questa location può offrire alla città di Trieste. Si parla di vendita agli austriaci entro l'anno? Si parla di vendita agli austriaci entro l'anno. Che cosa accadrà qui dentro, secondo lei? Si tratterà di capire quali sono le volontà della nuova proprietà, di cui io non sono in grado di dirvi. Sotto la Bora la sentiamo, è forte oggi, c'è il timore che i migranti in una situazione ancora davvero drammatica possano entrare, ancora è successo in queste settimane. Sì, questa è una nostra preoccupazione perché abbiamo visto durante i lavori che c'era il tentativo di stabilirsi da parte di queste persone fragili. Noi confidiamo sulla collaborazione con le forze dell'ordine per evitare che si riproponga una vergogna come di fatto è stata la storia del Silos degli ultimi anni. Noi abbiamo cercato di porvi rimedio, adesso dobbiamo collaborare tutti per evitare che questo si riproponga. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste ha emanato un'ordinanza urgente che prevede la chiusura degli esercizi commerciali e il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e alcoliche a partire da domani, sabato 5 ottobre, e fino al 1 novembre. Le misure, attive dalle 23 alle 6, riguardano il perimetro tra Via Geppa, Via Roma, Via Ghega, Piazza Libertà e Largo Città di Santos, insomma le aree limitrofe alla stazione e al Silos. L'assessora alla sicurezza, Caterina De Gavardo, ha annunciato controlli mirati della polizia locale e delle forze dell'ordine per prevenire situazioni di degrado. La vice sindaca Serena Tonel ha sottolineato che queste misure mirano a tutelare anche le attività economiche e la tranquillità dei cittadini. Infine, sarà invece consentita la somministrazione di bevande ai clienti nelle strutture esterne, nel rispetto delle normative vigenti e comunque nel rispetto della chiusura alle 23. Esportazioni in calo del 5% rispetto al semestre precedente, del 15,6% rispetto al 2022. Sono i dati preoccupanti del settore del legno arredo in regione. Primo semestre complesso per il settore legno arredo regionale. Secondo le analisi dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Istat, le esportazioni si sono contratte del 5,1% rispetto ai primi sei mesi del 2023 e del 15,6% rispetto al primo semestre 2022. Pesano gli effetti negativi dei conflitti in corso e i tassi di interesse ancora elevati, ma anche il rallentamento della Germania e l'attendismo dei consumi in una fase di incertezza. Uno spiraglio di luce arriva dalla proposta da parte della Commissione europea di far slittare di un anno l'attuazione del regolamento UE sulla deforestazione. Prevede, tra le tante cose, una piattaforma informatica per tracciare la provenienza del legno, così da sanzionare chi si approvvigiona da parti d'Europa dove non si dovrebbe disboscare. Come spiega Alessandro Fantoni, il capogruppo di settore per Confindustria Udine, l'obiettivo è positivo e condivisibile, ma troppo strette le tempistiche. Le aziende devono aver tempo di cambiare fornitori se uno di questi non dovesse più rientrare nei parametri, continua Fantoni, cosa che non si fa dall'oggi al domani, da cui la speranza che l'entrata in vigore del regolamento slitti appunto di almeno un anno. Anche il piccolo falegname che utilizza un tipo di legno per il top, uno per i fianchi e uno per la schiena di un mobile, dovrà ricevere dai fornitori dei codici di provenienza della materia prima da verificare su questa piattaforma, che però le aziende non hanno avuto ancora né modo di vedere né di testare. Stati come la Cina o l'Indonesia, che si rifiutano di condividere le informazioni sulla tracciabilità, non potranno più esportare in Europa. La sola Italia importa dalla Cina 2 miliardi di euro di prodotti a base legno, conclude Fantoni. Potrebbe dunque liberarsi una consistente quota di mercato occupabile da aziende europee ed italiane. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ricorre oggi il 5° anniversario dell'uccisione di Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, i due poliziotti che caddero sotto i colpi di pistola esplosi nella questura di Trieste da Alejandro Meran. Stamattina alle 9.30 è stato deposto un omaggio floreale nel famedio della questura. Successivamente è stata celebrata una messa nella chiesa di Piazza Hortis. L'episodio scioccò l'intera città e anche l'intero paese. L'assassino non è imputabile per vizio totale di mente e sta trascorrendo i suoi giorni in una REMS in provincia di La Spezia. Quello che è accaduto è una vera tragedia e qualcosa che non potremo mai dimenticare, l'ha affermato il questore Pietro Stuni a margine della cerimonia. C'è tantissimo dolore per un fatto che non ha eguali nella storia della polizia. La ferita è molto, molto profonda e difficilmente si potrà rimarginare. E a 5 anni di distanza un libro vuole ricordare i due poliziotti. Si intitola Matteo e Pierluigi, per sempre figli delle stelle, del giornalista e scrittore Gian Domenico Belliotti. Sono passati 5 anni da quel 4 ottobre 2019, quando gli agenti di polizia Matteo De Menego e Pierluigi Rotta vennero uccisi nei locali della questura di Trieste da Alejandro Stefan Meran, una vicenda che adesso viene ricordata dal giornalista Gian Domenico Belliotti in un libro dal titolo Matteo e Pierluigi, per sempre figli delle stelle. È un riferimento molto importante, perché poi ha permesso, ecco, a tutto il paese di conoscere chi erano Matteo e Pierluigi, quando la polizia decide di pubblicare pubblicare sui propri profili social quel video che i ragazzi avevano girato qualche sera prima a bordo della loro volante, mettendo come sottofondo una canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle degli anni 70. Un volume nato dall'interesse per una vicenda che ha sconvolto non solo Trieste, ma tutta l'Italia. Quando è successo l'omicidio, il 4 ottobre del 2019, questa cosa ha destato un particolare clamore, una particolare emozione. In tutta Italia, in tutte le questure d'Italia, c'è stata questa forte solidarietà da parte di persone che comunque si recavano presso gli uffici e presso i presidi della polizia a portare un fiore, a portare un messaggio. Quindi non era più una cosa confinata a una città o una regione, ma è diventato un sentimento emotivo, diciamo, proprio popolare. Mi sono appassionato a questa storia, ne ho seguito le varie fasi, le varie udienze che, come abbiamo scritto nel libro, forse diciamo sono state un po' passate in sordina, perché nel frattempo il nostro paese era attraversato dall'emergenza Covid. Il libro non ha nessuna finalità da scoop giornalistico, ma bensì vuole essere un ricordo affettuoso di questi due ragazzi, restituire ai cittadini un ricordo di questi due agenti che comunque attraverso il loro lavoro hanno contribuito a garantire la sicurezza del nostro paese. I finanzieri di Pordenone hanno arrestato un cittadino pakistano per spaccio di stupefacenti, sequestrando quasi 30 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish, 765 euro in contante. L'arresto è avvenuto dopo che l'uomo ha tentato di cedere mezzo grammo di cocaina a un giovane in scooter. Il pakistano è stato portato in carcere. La Società dei Concerti di Trieste ha presentato oggi il programma della sua nuova stagione, ma lo ha fatto in un giorno funestato dal lutto per la morte del suo presidente Nello Gonzini, per 45 anni anima artistica del sodalizio. È dedicata a Nello Gonzini la nuova stagione della Società dei Concerti di Trieste. Scomparso all'età di 88 anni, è stato segretario generale, presidente fino a ieri, presidente onorario, anima artistica della Società dei Concerti per 45 anni. Il presidente Piero Lugnani lo ricorda così. È un mondo che se ne va, è un mondo diverso di una società molto più acculturata, quella della Società dei Concerti, che ho avuto modo di conoscere io quando a 10 anni decisi di iscrivermi a questo importante sodalizio. Sul suo esempio continuiamo nel suo tracciato, guardando appunto alla proposta artistica di una eccellenza nell'arte della musica. La nuova stagione si presenta con 30 concerti suddivisi in 5 rassegne, ciascuna con un percorso specifico. Si comincia il 24 ottobre con 7 racconti tra arte, storia e musica ai musei civici, dedicati allo speciale rapporto di Trieste con l'impero austro-ungarico. Dal 26 ottobre partono i 4 concerti gioiello Wunderkammer, per arrivare al 25 novembre con la stagione concertistica 93. 12 proposte al Teatro Verdi, dove si apre con Oriente e Occidente, Dialogo delle Anime, del violinista Jordi Savall. A dicembre saranno 3 gli appuntamenti dedicati all'Avvento e al Natale tra la Chiesa Evangelica e il Castello di Miramare. Il direttore artistico Marco Secco. Abbiamo artisti come Jordi Savall, Grigori Sokolov, Buchbinder, Giardino Armonico con Isabel Faust, Sol Gavetti, insomma nomi che girano veramente tutto il mondo e che siamo felici di portare a Trieste, quindi rendere Trieste veramente un palcoscenico internazionale. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il progetto di John De Leo e i Jazz Billy Lovers si esibiranno stasera ad Azzano Decimo per Estensioni Jazz, club diffuso. I Jazz Billy rappresentano un progetto musicale imprevedibile e a tratti divertente, anche con brani inediti. Viaggiano tra reinterpretazioni e arrangiamenti riproposti in chiave improvvisativa, dalla versione rock and roll ai temi delle canzoni di Elvis Presley e dei Stray Cats. A comporre il gruppo, oltre John De Leo alla voce, Enrico Terragnoli alla chitarra, Stefano Segni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. L'appuntamento è la Sala Enal di Azzano Decimo alle 21. Sono le 12.